Diritto Giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Manovra per Bruxelles, c'è il rischio che l'Italia non rispetti il patto di stabilità. Aperture sugli interventi per la messa in sicurezza del territorio. E intanto nell'esecutivo europeo nuovi problemi per Oettinger, andato in Ungheria con il jet privato di un imprenditore molto vicino alla Russia, si indaga. Esercito nelle città, nessuna sovrapposizione con le forze dell'ordine, dice Pinotti, e dopo la richiesta di Milano ci si pensa anche in altre parti d'Italia. Affitti anche raddoppiati per i terremotati, la denuncia arriva da Tolentino, partita da un politico, la conferma dagli agenti immobiliari. Come ogni anno la classifica di Eduscopio, città per città le migliori scuole superiori, ci si basa su risultati universitari e sbocchi lavorativi. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. 349-238-6666 per i vostri sms e per i messaggi su WhatsApp, Effetto Giorno, @radio24.it se ci volete scrivere. In apertura dunque parliamo della manovra, dei rapporti con Bruxelles, del giudizio di Bruxelles sulla nostra legge di stabilità. Vincenzo Miglietta, buongiorno. Sì, buongiorno, nessuna bocciatura, nulla di definitivo per il momento da Bruxelles, ma sicuramente le considerazioni della Commissione europea sulla manovra frenano il provvedimento di Palazzo Chigi. La bozza di legge di bilancio italiana 2017, scrive allora la Commissione, è a rischio di non rispetto dei requisiti del patto europeo, perché potrebbe risultare in una deviazione significativa dell'aggiustamento verso l'obiettivo di medio termine. Lo stesso rischio, spiegano da Bruxelles, c'è per altri 5 paesi: Belgio, Cipro, Lituania, Slovenia, Finlandia. Per l'Italia il gap è più ampio rispetto agli impegni richiesti, aggiunge però il commissario agli affari economici Moscovici, ma una parte significativa della deviazione di bilancio è associata ai costi del sisma e alla drammatica situazione che si è creata e alla gestione dei flussi migratori. Altro capitolo, Simone, quello del debito. Il vicepresidente della Commissione Dombrovskis annuncia che per Belgio e Italia vi sarà a breve un rapporto specifico. Infine la crescita dell'Eurozona, la Commissione europea per la prima volta raccomanda una politica espansiva fissando l'obiettivo del più 0,5% del PIL per l'area della moneta unica. È tutto, linea allo studio. Grazie dunque a Vincenzo Miglietta per questo aggiornamento. E poi c'è il fronte più puramente italiano, in arrivo la fiducia sul decreto fiscale. Teresa Trillò, buongiorno. Sì, buongiorno. Le votazioni alla Camera sono iniziate poco prima di mezzogiorno, il responso dovrebbe arrivare a breve. Renzi intanto dalla Sicilia, dove è in visita, lancia un messaggio all'Europa. Bruxelles, dice il Presidente del Consiglio, faccia il suo mestiere, promuova la crescita, non solo l'austerity, bisogna investire sul futuro, non solo sulla burocrazia. La politica di austerità è suicida, secondo Renzi, perché ha portato al taglio di 20 miliardi di investimento per le opere pubbliche, e così, avverte Renzi, si taglia la possibilità di crescita. Se il Sud riparte, ha aggiunto anche il Presidente del Consiglio, l'Italia diventa la locomotiva d'Europa. E proprio ieri sono arrivate buone notizie sulla crescita. Secondo l'Istat, infatti, il PIL nel terzo trimestre è cresciuto dello 0,3%, e così per il 2016 si può raggiungere l'obiettivo dello 0,8% fissato dal governo. E per il momento da Roma è tutto, e ti restituisco la linea. Grazie dunque a Teresa Trillò per questo aggiornamento. Abbiamo di oggi anche i dati dell'INPS sui licenziamenti. Livia Zancaner. Buongiorno Simone, allora poco fa la conferenza stampa di presentazione dei dati INPS sui licenziamenti. Il periodo di riferimento è il 2007-2014, prima e dopo c'è la grande recessione del 2008, anno in cui licenziamenti e licenziati sono saliti del 20%. L'altro picco c'è stato poi nel 2012 con un più 11%. Il tasso di licenziamento per i dipendenti a tempo indeterminato di imprese private è passato dal 5% pre-crisi al 7% del 2014, e a livello di numeri dal 2009 i licenziamenti si aggirano intorno a 800.000 all'anno. I più esposti sono gli uomini rispetto alle donne, i giovani, gli anziani e gli stranieri. Secondo lo studio dell'INPS, dopo il licenziamento l'1% dei lavoratori va in pensione, il 20% trova un altro lavoro e il 69% ricorre agli ammortizzatori sociali. Per quanto riguarda il 2016, quindi i primi 9 mesi, i licenziamenti, sempre per i contratti di lavoro a tempo indeterminato, sono cresciuti del 4% contro il meno 5 segnato nel 2015. Sono saliti in particolare licenziamenti per giusta causa e giustificato motivo soggettivo, i cosiddetti licenziamenti disciplinari. Ed è tutto, a te Simone. Grazie anche a Livia Zancaner. Abbiamo molto parlato in apertura dei rapporti con l'Europa, soprattutto in relazione alla manovra, ma nel frattempo emerge all'interno della Commissione un problema, riguarda ancora una volta il commissario Oettinger. Sergio Nava, cosa succede? Buongiorno. Buongiorno sì, c'è una nuova bufera sul commissario europeo all'economia digitale Günther Oettinger. Dopo le gaffe delle settimane scorse in cui ha attaccato gay e cinesi, l'esponente tedesco, designato per prendere anche la responsabilità del bilancio comunitario, torna nell'occhio del ciclone per aver usato l'aereo privato dell'uomo d'affari tedesco Klaus Mangold per volare da Bruxelles a Budapest, dove era atteso a una cena col premier ungherese Orban. Due giornali online europei sollevano il caso oggi, spiegando che si tratta di un episodio risalente ad alcuni mesi fa. Politico.eu sottolinea anche i legami di Mangold col Cremlino. E l'europarlamentare Javor, che ha sollevato il caso, ipotizza una violazione del codice di condotta. Oettinger su Twitter spiega che le accuse non sono vere, non abbiamo chiesto in modo esplicito all'Ungheria il pagamento né dell'aereo né dell'hotel, e poi ha proseguito sostenendo che non poteva prendere un volo di linea e ha negato di aver discusso con Orban, questo sempre Oettinger, il progetto della centrale nucleare di Pax. Per Oettinger, già protagonista in passato di gaffe che l'hanno reso uno dei commissari europei meno presentabili, dunque un nuovo inciampo, e per la Commissione un nuovo possibile danno di immagine che segue mesi di polemiche sulle ricche consulenze nel mondo dell'industria e bancario per l'ex presidente Barroso e altri ex componenti dell'esecutivo, episodi che pongono seri interrogativi sulla reale indipendenza dei commissari europei. Per il momento è tutto. Grazie dunque anche a Sergio Nava. Andiamo dall'altra parte dell'oceano, adesso negli Stati Uniti è in fase di composizione la squadra del presidente eletto Donald Trump, una composizione che al momento appare piuttosto complicata, vedremo che cosa succederà nelle prossime settimane, tra l'altro ne parleremo anche più avanti in America 24 con Mario Platero. Intanto parla il presidente siriano Assad e dice che Trump sarà il nostro alleato naturale. Un alleato naturale, così il leader siriano Bashar al-Assad ha definito il neoeletto presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Lo ha fatto alla TV portoghese RTP. If he's going to fight the terrorists, of course we're going to be Se combatterà i terroristi, allora saremo alleati naturali. Non possiamo sapere però quello che intende fare, perché non ha una storia politica alle spalle. Certo, se li combatterà, e dico se, saremo alleati come lo siamo con i russi, gli iraniani e diversi altri paesi. Di recente Trump aveva definito una follia l'ipotesi di attaccare in contemporanea le forze armate siriane e l'ISIS. C'è da dire che con il termine terrorismo il regime di Damasco intende tutte le formazioni armate che gli sono ostili, sia quelle che sono considerate moderate, sia lo Stato Islamico che controlla vaste regioni in Siria. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ci spostiamo in Francia adesso, dove inizia in sostanza la corsa per le presidenziali. Emmanuel Macron rompe gli indugi e annuncia che si presenterà alle presidenziali francesi del 2017. L'ex ministro dell'economia, uno dei fedelissimi del presidente François Hollande, ha reso pubblica la sua candidatura a Bobigny, una banlieue nel nord-est di Parigi. «Sono pronto, ce la possiamo fare», ha spiegato il 38enne che ha lasciato Hollande, il Partito Socialista, nell'agosto del 2016 per fondare un suo movimento politico chiamato En Marche, In Marcia. L'uscita allo scoperto di Macron alla vigilia delle primarie francesi del centrodestra che si terranno il 20 e il 27 novembre. Nella speranza di influire sul voto. La sfida, ha detto Macron, non è raccogliere la sinistra o la destra, ma combattere uniti per noi e i nostri figli. Non mi tange il commento alla candidatura di Macron, che si presenta come rottamatore, del premier francese Valls, che avverte: per essere presidente della Repubblica servono esperienza e forza, non leggerezza. Il tutto mentre la leader del Front National, Marine Le Pen, lancia su Twitter il nuovo logo che presenta per la prima volta nella storia del partito una rosa blu. Si trova tra le parole Marine sopra e presidente sotto. È simbolo di femminilità e ottimismo, spiega la Le Pen. Il Front National ha anche una nuova sede, vicino all'Eliseo, e un nuovo slogan, nel nome del popolo, perché in una democrazia, spiega sempre la leader dell'estrema destra francese, nulla si deve fare senza il popolo, come hanno dimostrato americani e inglesi. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Adesso veniamo alla politica italiana, non prima alle discussioni nel centrodestra, al referendum, non prima di avervi dato l'ultimo aggiornamento sul decreto fiscale. La Camera ha dato la fiducia posta al governo al decreto fiscale, sì, sono stati 359, 166 i no. La politica italiana, si diceva, a partire dal centrodestra. Di Eredia attorno a sé dice di non vederne Silvio Berlusconi, dal quale un po' a sorpresa oggi arriva un elogio di Matteo Renzi. L'unico leader in politica al momento è lui, sostiene l'ex cavaliere. per guidare il centrodestra serve il consenso di tutti, spiega poi l'ex premier, che torna sulla sua decisione di ridimensionare il ruolo di Stefano Parisi dopo i contrasti con il leghista Matteo Salvini. I toni troppo accesi non servono, i personalismi sono deleteri, né lui né chiunque altro può avere la guida della coalizione se gli altri membri non lo accettano, è il messaggio rivolto anche al leader del Carroccio. Quanto alla riforma costituzionale, non assicura più efficienza ed è pericolosa perché può aprire ad una deriva autoritaria, ribadisce Berlusconi, secondo il quale se al referendum dovesse vincere il no, non ci sarà il caos, come dice Renzi, ma si potrà avere un governo che faccia la legge elettorale e riporti gli italiani al voto. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E veniamo proprio al fronte del referendum, gli aggiornamenti di oggi con Elisabetta Fiorito. Sì, Simone, allora arriva il sostegno di uno dei padri costituenti del PD, anzi del padre costituente Walter Veltroni, per il referendum costituzionale. Non condivido questo clima da guerra civile sul referendum, dice Veltroni, voterò a favore della riforma costituzionale. C'è bisogno di innovare la Costituzione e sono angosciata dalla crisi della capacità di decisione che vede una tendenza a tenere tutto com'è. Il premier Matteo Renzi continua poi però a ribadire che in caso di vittoria del no si dimetterà. La vita è bella anche fuori dalla politica, dice Renzi, sono contento di vivere questi giorni finali, l'esito avrà anche conseguenze a partire dal sottoscritto, non è che le cose non cambiano, ma se crediamo alla democrazia possiamo dire che questi 20 giorni li aspettavamo da 20 anni, sono 20 anni che tutti promettono, ora è il momento. Il Movimento 5 Stelle invece è alle prese con l'accusa di cyberpropaganda del profilo Twitter di Beatrice Di Maio, star web pro Movimento 5 Stelle, denuncia da Palazzo Chigi per diffamazione e il movimento controdenuncia, il governo fa cyber onanismo. A te Simone. Grazie dunque ad Elisabetta Fiorito anche per questo aggiornamento. La cronaca, servizi a sfondo sessuale, oltre a vessazioni fisiche e psicologiche, quanto sarebbe stato costretto a subire un bambino di 6 anni da parte della madre e del compagno della donna, di 25 e 30 anni, originari dell'est Europa, arrestati dalla squadra mobile di Terni. A loro carico è stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Gli investigatori non escludono che i due volessero anche avviare il bambino alla prostituzione minorile. Ed è notizia di oggi che è sempre più precaria la condizione dei minori in Italia. Secondo l'Atlanta dell'infanzia di Save the Children, quasi un minore su 3 è a rischio povertà ed esclusione sociale, mentre i bambini di 4 famiglie povere su 10 soffrono il freddo d'inverno per la mancanza di riscaldamento. Veniamo alla classifica Eduscopio, arriva ormai ogni anno, questo è il terzo anno, è la classifica realizzata dalla Fondazione Agnelli e che mette in fila un po' i licei e non solo, un po' tutte le scuole superiori per capire quali sono quelle migliori. Sentiamo. Si avvicina per gli studenti di terza media il momento di scegliere la scuola superiore. Una scelta non facile, la prima importante nella vita di un ragazzo. E non sono molti gli strumenti in mano alle famiglie. Certo, le scuole hanno fatto passi avanti, organizzano incontri informativi, propongono test attitudinali e poi ci sono gli open day, in cui però ancora molti presidi raccontano più la scuola che vorrebbero che la scuola che in effetti gestiscono. E allora largo spazio viene lasciato al passaparola, al sentito dire, cosa che rischia di penalizzare le famiglie meno inserite in una rete sociale efficace. Da oggi, come accade da 3 anni, si può consultare eduscopio.it edizione 2016, il portale messo a punto dalla Fondazione Agnelli, in cui vengono confrontate le scuole superiori di tutta Italia, Bolzano esclusa, in base a come preparano per l'università. E di 7 regioni, Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Lazio, Basilicata e Sardegna, in base a come preparano per il mondo del lavoro. Sono stati analizzati i dati di quasi 1 milione di diplomati. Si parte scegliendo il tipo di scuola, come spiega Andrea Gavosto, direttore della Fondazione Agnelli. Quindi una volta scelto l'indirizzo, a quel punto guardare quale scuola è disponibile in un raggio limitato da dove si risiede e verificare, diciamo, sostanzialmente come quella specifica scuola prepara per il dopo, dove il dopo è o l'università o il mondo del lavoro. Maria Piera Ceci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Noi adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sulle strade e poi iniziamo il nostro giro per l'Italia. E iniziamo iniziamo dalle zone terremotate, in particolare dalle Marche, dove sta arrivando una denuncia molto pesante. C'è gente che sta alzando la richiesta d'affitto, arrivando fino addirittura a raddoppiarla. Perché? Perché i terremotati hanno un contributo statale e quindi qualcuno ci vuole speculare sopra. Tra poco. OneExpress.it, il pallet network italiano che viaggia in Europa, vi presenta Effetto Giorno. Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. Nella prima parte della trasmissione abbiamo parlato del giudizio di Bruxelles sulla manovra italiana. Dice Bruxelles che c'è il rischio che l'Italia non rispetti il patto di stabilità. Nel frattempo è arrivato la fiducia al governo sul decreto fiscale da parte della Camera. Intanto, e lo abbiamo detto sempre nella prima parte della trasmissione, l'esecutivo europeo ha nuovi problemi, soprattutto per Gunther Oettinger, il commissario andato in Ungheria con il jet privato di un imprenditore molto vicino alla Russia. Ci siamo occupati anche delle presidenziali in arrivo in Francia nel 2017, di politica italiana con il centrodestra e il referendum. Ci siamo occupati anche di scuola con la nuova indagine Eduscopio su quelli che sono i migliori licei, i migliori istituti superiori in Italia. Adesso iniziamo il nostro giro per l'Italia e iniziamo dalle Marche e dalle zone colpite dal terremoto. Nei giorni scorsi ci eravamo interessati a una vicenda che era stata raccontata dal Resto del Carlino ed era una vicenda che prendeva le mosse dalla denuncia del presidente del Consiglio Comunale di Civitanova, Daniele Maria Angelini, che raccontava che c'era un vero e proprio caro affitti per gli sfollati del terremoto. Abbiamo parlato con Angelini, anche se non è intervenuto ai nostri microfoni. Alcune storie naturalmente le cerchiamo e poi non le prendiamo perché non giudichiamo che non abbiano abbastanza basi, almeno in quel momento. Abbiamo atteso altre conferme e poi sempre il Resto del Carlino ha riportato un'altra testimonianza un po' più concreta, perché poi sul territorio le notizie arrivano magari anche ai politici, poi invece ci vogliono le testimonianze concrete e le conferme. Ed è la testimonianza di un agente immobiliare di Tolentino, che è Massimo Di Mascio e che è in linea con noi. Di Mascio, buongiorno e benvenuto. Buongiorno, grazie a voi. Allora, ci spiega un attimo che cosa succede, ma davvero c'è gente che sta alzando la richiesta d'affitto perché ci sono degli sfollati che cercano casa? Assolutamente sì, purtroppo siamo in un momento di grandissima difficoltà. Ogni giorno sono costretto, passatemi il costretto, a sentire storie di disperazione totale di chi ha perso la casa, chi il lavoro e chi entrambe. Le persone vivono in camper, roulotte, in auto, in centri di accoglienza, con problematiche di ogni genere ovviamente. Le più fortunate, o meglio, le meno sfortunate, sono riuscite a trovare un alloggio in affitto, ma debbono imbattersi in canoni di locazione mai esistiti per una cittadina come Tolentino. Nel momento del bisogno e della disperazione, ovviamente gli avvoltoi sono sempre in agguato. Ci fa qualche esempio, per favore, Di Mascio, per darci un'idea? Sicuramente. Qualche esempio. Vengono persone, venivano, oramai gli affitti non sono più disponibili anche nel raggio di 40-50 chilometri da Tolentino. Venivano persone proprietari a chiedere le valutazioni dei loro immobili da collocare in affitto, ad esempio in media un affitto di circa 400 euro mensile. Molte persone mi sentivo rispondere: perché 400 euro? Se andranno ad abitare tre persone il contributo medio è di circa 200 euro a persone, 2, 4, 6, io chiedo 600, perché 4? Allora, quando ascolto questi ragionamenti non posso esimermi dal chiedere a questi bravi signori o presunti tali: ma se lo Stato non riconoscesse nulla, nessun contributo a queste persone, voi sareste disposti a dare l'appartamento in comodato d'uso? Qua qualche ascoltatore un po' cattivo, Di Mascio, con lei, perché poi ci sta anche questo. Qualche ascoltatore cattivo via WhatsApp ci chiede se lei prende la provvigione. Immagino che la prenda. Posso comunque risponderle? Sì, prego. Posso risponderle? Allora, io le dico in tutta franchezza, ho anche affittato appartamenti senza pretendere provvigioni immobiliari. Una cosa sola ho preteso, ho preteso abbracci da delle persone. Potete non credermi, siete liberissimi di farlo. Mm. E comunque, sa, alla fine è un banale ragionamento economico, dice, e lo dico all'ascoltatore che è anche un po' scettico, se quelli alzano l'affitto, Di Mascio ha tutto l'interesse a farlo affittare alla cifra più alta, se anche prende la provvigione, quindi non avrebbe senso, no, dirgli di abbassarlo. Assolutamente no, gli appartamenti non sono più disponibili. Una cittadina di 21.000 abitanti, quando 11.000 persone sono fuori, quindi in media 6-7.000 unità abitative non sono più disponibili perché sono lesionati, il mercato è saturo, non ci sono più affitti, non c'è più disponibilità di nulla. Chiedendo questi grandi affitti, queste grandi cifre, le persone sono costrette ad andare via e poi una volta sistemate, per modo di dire, in altri posti, ovviamente difficilmente ritorneranno. Tra l'altro, richieste di affitto più elevate anche per abitazioni non antisismiche, che però magari hanno retto all'ultimo terremoto e che però sono sempre a rischio. Certo, sì, sicuramente sì. Appartamenti prima del sisma affittati ad un canone di 4,50, nei limiti massimi anche 500, oltre i quali molte persone avrebbero preferito l'acquisto e pagare una rata di mutuo. Dopo il sisma persone se ne sono andate dalla paura, con canoni di locazione dai 4,50 ai 500, i signori proprietari hanno rimesso in mercato gli stessi immobili al canone mensile di euro 800. La ringrazio, grazie a Massimo Di Mascio, agente immobiliare di Tolentino, è una delle testimonianze che abbiamo voluto raccogliere. Se ci fosse qualcuno in ascolto dalle Marche che ha altre storie simili o dall'Umbria che ha altre storie simili da raccontarci, siamo qua a disposizione, effettogiorno@radio24.it, come sempre se ci volete scrivere. La vicenda dei soldati in città. C'è stata la richiesta del sindaco di Milano, Beppe Sala, ha detto per via Padova, dopo l'omicidio che c'è stato più o meno là in zona nei giorni scorsi, ha chiesto mandateci l'esercito. Il governo ha aperto, Roberta Pinotti, ministro della difesa, ha detto abbiamo 1.800 militari che sostanzialmente si liberano dopo le operazioni di sicurezza che abbiamo messo in campo per il giubileo, è qualcosa a cui possiamo pensare. Ha rotto sostanzialmente, se vogliamo, anche un tabù, Sala, no? Sulla richiesta dell'esercito da parte di un sindaco di centrosinistra. Vogliamo parlarne, ed è un tema che toccheremo magari nei prossimi giorni anche con altre città. Iniziamo dai dintorni di Milano, per così dire, anche se è un'altra provincia, con Varese, col sindaco Davide Galimberti. Buongiorno Galimberti, benvenuto. Buongiorno a voi, grazie. Lei tra l'altro ha un'opposizione che ha chiesto di chiedere l'esercito in città, no? Sì, in verità fortunatamente la città di Varese, a differenza ovviamente di Milano, la situazione di sicurezza è un po' diversa, quindi capisco la richiesta del sindaco di Milano, ma ovviamente non si può comparare e assimilare la situazione di Milano, della metropoli questo... milanese, a una città di provincia come, certo, Varese, dove anche io sono proprio reduce da un incontro con le forze dell'ordine, di un comitato per la sicurezza e l'ordine pubblico, dove è stato ampiamente garantito che la situazione è sotto controllo, quindi nulla di paragonabile alla città di Milano. È ovvio che il tema di sicurezza è un tema su cui le amministrazioni, i sindaci e tutte le istituzioni devono prestare la massima attenzione e non abbassare la guardia, perché è ovvio che il tema della sicurezza non mi dica una cosa, Galimberti, ma lei come la vede l'ipotesi? Adesso non magari le chiedo ovviamente per quel che riguarda la sua città, ma genericamente, diciamo, che ne pensa l'idea dell'esercito nelle strade come presidio di sicurezza, per così dire? Se ci sono delle necessità e quindi le forze dell'ordine, le forze di polizia, carabinieri, guardia di finanza e la polizia locale non sono sufficienti a fronteggiare i vari fenomeni di delinquenza diffusa che si possono verificare, è ovvio che anche l'utilizzo dell'esercito può essere uno strumento, però non si può invocare dove questo non è necessario, quindi è un'ipotesi che il sindaco di Milano ha fatto bene, vista perché più di lui ha il panorama della situazione, e mi sembra che anche la risposta del governo sia una risposta che va in quella direzione. Ripeto, bisogna mettere in campo tutte le risorse disponibili per fronteggiare queste situazioni, questi fenomeni, perché i cittadini devono essere messi in assoluta sicurezza. Qualche tempo fa Galimberti si era ipotizzata, era circolata la voce che potesse arrivare, e forse era addirittura già pronta, una circolare del Ministero dell'Interno, comunque un provvedimento da parte del Ministero dell'Interno che assegnava ai sindaci qualche potere in più in termini di sicurezza e probabilmente anche di dislocazione delle forze dell'ordine, di qualche potere, se vogliamo, per certi versi simile a quello dei prefetti. È una cosa che la convince oppure no? Oppure, come dire, su questi temi è bene che le cose restino in mano allo Stato centrale con le sue articolazioni territoriali, che poi sono i prefetti, appunto? Ma guardi, io penso che ci siano già dei tavoli dove si possono fare, mettere a frutto le sinergie e le rispettive competenze. Quindi, ovvio, se ci sono delle situazioni di emergenza e si ritiene di ampliare determinati poteri, si può assolutamente valutare. Oggi però dico che siamo fortunatamente un paese che è in condizione di fare sinergia tra tutte le forze amministrative e le forze dell'ordine. Quindi probabilmente in questo momento non vedo necessaria un'ipotesi di questo tipo, anche perché servono le competenze, sì. Cioè è abbastanza semplice invocare, soprattutto in momenti di difficoltà, l'ampliamento di poteri in capo all'uno o all'altro soggetto, sì. Ma quello che conta è la professionalità con cui vengono esercitati questi poteri, ovviamente, e quindi servono preparazione. Senta, battutaccia, è un ascoltatore, è necessario l'esercito perché i vigili sono troppo impegnati a far multe ai cittadini onesti. Non è male, come la prende? Ma dico che sicuramente i vigili devono fare le multe a chi infrange. Che poi lei voleva fare, lei voleva fare il vigile di quartiere, non mi ricordo male. Ma noi abbiamo previsto l'ipotesi di inserire, io sono in carica da 4 mesi e mezzo e stiamo studiando l'ipotesi di inserire in alcuni quartieri della città il vigile come forma di presidio. Si figuri che noi sulla sicurezza abbiamo addirittura chiesto ai cittadini di adottare una telecamera in più per amplificare la sorveglianza del nostro territorio. Devo dire che è un'iniziativa che ha avuto un grande successo, ci sono commercianti, abitanti di alcuni quartieri che ovviamente proprio per sentirsi anche più protetti e dare maggiori garanzie di sorvegliabilità hanno contribuito direttamente aiutandoci appunto a reperire un po' di telecamere. La ringrazio, grazie a Davide Galimberti, sindaco di Varese, per essere stato con noi. Probabilmente sarà questa la prima tappa di una serie di città che andremo a toccare. Siamo sulle tracce di Bari, dove l'esercito c'è cioè già da marzo. Magari sentiremo anche Torino, perché mi è sembrato di capire che qualche apertura da questo punto di vista dalla sindaca Appendino ci sia stato. Noi adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sui mercati come sempre. Poi il nostro viaggio per l'Italia farà tappa a Genova per una vicenda che sta mettendo l'un contro l'altro l'università, il rettore dell'università e il centrodestra, in particolare la destra, Fratelli d'Italia. Tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. I nostri titoli, a partire da una notizia arrivata pochi istanti fa in redazione: un terremoto di magnitudo 3.9 è stato registrato nella zona tra Umbria e Marche, tra Norcia e Castel Sant'Angelo sul Nera. Al momento non sono giunte segnalazioni di ulteriori danni, ulteriori crolli, vi sapremo aggiornare naturalmente. Il fronte della manovra, per Bruxelles c'è il rischio che l'Italia non rispetti il patto di stabilità, ci sarebbero aperture sugli interventi per la messa in sicurezza del territorio. Intanto nell'esecutivo europeo nuovi problemi per il commissario Oettinger, è andato in Ungheria con il jet privato di un imprenditore molto vicino alla Russia, si indaga. L'esercito nelle città, nessuna sovrapposizione con le forze dell'ordine, dice Pinotti, e come avete sentito, dopo la richiesta di Milano ci si pensa anche in altre parti d'Italia. la borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Effetto Giorno. Ed eccoci di nuovo, il nostro giro per l'Italia adesso tocca Genova, dove c'è una vicenda che parte dall'università, arriva in politica e rinfocola qualche polemica sulla cosiddetta teoria gender. Abbiamo in linea con noi Paolo Comanducci, che è rettore dell'università. Buongiorno rettore, benvenuto. Buongiorno a voi. Eccoci qua. Che cosa è successo? È successo che avete fatto un libretto per gli studenti, che poi è un tesserino, è un badge ormai, cioè non è più, lo chiamiamo libretto perché insomma nella nostra memoria abbiamo questo, in realtà appunto è sostanzialmente un badge, è dedicato agli studenti in transizione, cioè quelli che stanno cambiando sesso, e la cosa non è piaciuta, mi è sembrato di capire. Ad alcuni non è piaciuta. Devo dire che l'iniziativa è venuta dal Comitato Pari Opportunità, in cui sono rappresentati gli studenti, e gli studenti sono stati molto favorevoli a questa piccola innovazione. Si tratta semplicemente di fornire un doppio tesserino, perché l'identità di genere non la cambia l'università, sicuramente la cambia il comune sulla base di una legge del 1982. Però c'è una lunga trafila burocratica, per cui nel frattempo, se lo studente deve presentarsi all'esame, si può presentare con un'apparenza e anche un sentimento interno diverso da quello che risulta all'anagrafe. Noi vogliamo evitare questo, abbiamo voluto evitare questo imbarazzo, questa situazione di disagio dello studente. Perché è un disagio dello studente e un disagio dello studente è un imbarazzo per i commissari, evidentemente. Ovviamente, no? Perché si trovano di fronte una persona che ha un'apparenza fisica diversa da quella che risulterebbe all'anagrafe. Allora consentiamo di avere questo secondo badge con il nome cambiato, in modo che corrisponda all'identità che uno si sente dentro. Io credo che sia stato un piccolo gesto di sensibilità umana nei confronti di persone che attraversano un periodo sicuramente complesso della loro vita, e farne una questione ideologica, sbandierare le teorie del genere eccetera, mi sembra francamente fuori luogo. Tra l'altro mi segnala un ascoltatore che anche l'università di Bergamo fa la stessa cosa, quindi non siete i primi nemmeno a fare questa cosa. No, assolutamente, c'è l'università di Torino, di Bologna, di Padova, di Napoli che lo hanno già fatto. Noi l'abbiamo fatto l'anno scorso, quest'anno abbiamo dato la possibilità a tutti gli studenti che volessero ovviamente di usufruire di questa possibilità, e abbiamo una decina di ragazzi che hanno chiesto questo doppio badge. A me sembra una questione di civiltà, puramente e semplicemente, e strumentalizzarla a fini politici non mi è sembrata una bella cosa. Sì, ce lo chiede un ascoltatore, ci chiede quanti saranno. Beh, ce l'ha detto, sono una decina quelli che hanno richiesto il doppio badge, magari saranno di più quelli in transizione che decidono di non chiedere questo doppio badge, ma appunto le persone che hanno richiesto il doppio badge sono una decina. È chiaro che è una questione che riguarda poche persone, ma non sempre le questioni che riguardano poche persone sono poco importanti, soprattutto per queste persone e per come vivono questi momenti. Qua che cosa è successo? Che Fratelli d'Italia, sia alla regione sia al comune, hanno parlato di un'iniziativa surreale e becera, perché per tutta una serie di motivi, perché dicono andate a confortare la cosiddetta teoria gender, no? Io la teoria gender francamente ancora in che cosa consista, so che esiste anche nel nostro Ateneo, esiste soprattutto negli Stati Uniti, che si chiama studi di genere, che è una disciplina serissima, che non propaganda nessun tipo di ideologia specifica, ma che studia questi fenomeni che sono molto importanti. Certamente c'è un cambiamento della sensibilità collettiva su questi temi. Un tempo non si sarebbe parlato, nessuno si sarebbe posto neppure il problema, però oggi c'è una sensibilità. D'altra parte io credo che stiamo semplicemente attuando il secondo comma dell'articolo 3 della Costituzione, cioè si tratta di trattare gli uguali in modo uguale, ma i diversi in modo diverso, ossia non si possono trattare tutti nello stesso modo nel momento in cui ci sono delle differenze significative. E in questo caso la differenza significativa c'è, che non è, come è stato detto, una scelta volontaria, arbitraria, eccetera, è che come uno si sente dentro è qualcosa di importante se vogliamo dare attenzione alle persone e non fare delle guerre ideologiche. Ci scrive un ascoltatore, questo mi porta in realtà ad un'altra domanda, scrive: ma perché bisogna scrivere sul libretto il genere sessuale? Come è fatto questo libretto? Cioè in cosa si differenzia dagli altri? No, è un badge, semplicemente una tesserina in cui c'è il nome e cognome. Allora il nome è, se è Mario non è Maria, ecco, questa è la differenza, sì. non c'è un'indicazione specifica del sesso dello studente, ma c'è un nome. Il nome che il ragazzo in questione o la ragazza in questione pensa di assumere alla fine del percorso burocratico che lo porterà al cambiamento di sesso. La ringrazio, grazie a Paolo Comanducci, a rettore dell'Università di Genova, per essere stato con noi, averci raccontato, aiutato a raccontare questa piccola parte di storia che qualche polemica a Genova l'ha creata. Noi adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sulle strade e poi il nostro Mario Platero, ci risentiamo alla fine per i saluti.